9 in punto. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno da Gianfranco Fabi. Innanzitutto gli auguri ad Oscar Giannino, una breve sospensione, ma speriamo che torni domani a condurre 9 in punto, la sua versione, la versione di Oscar. Oggi è la versione di Fabi e oggi parliamo di nucleare, di energia nucleare. Ne parliamo per due ragioni. Il nucleare è in prima fila sul fronte politico con le vicende iraniane, con questa volontà dell'Iran di sviluppare l'energia nucleare, ufficialmente secondo Teheran, per fini civili, ma la grande preoccupazione è che dai fini civili si passi rapidamente, ma vedremo tecnicamente come ai fini militari. E l'altra ragione più vicina a noi è che il Consiglio dei Ministri in questi minuti, in questa mattina, sta varando il provvedimento previsto dalla legge approvata la scorsa estate per determinare i criteri con cui scegliere i siti per dove costruire le nuove centrali nucleari. Quindi l'Italia ha già deciso con la legge dell'estate scorsa di tornare a investire sul nucleare. Adesso si stanno compiendo dei passi avanti, dei passi necessari, perché per costruire una centrale ci vuole un luogo dove costruirla, ci vuole il consenso di chi vive in questo luogo, e quindi questo provvedimento che viene approvato questa mattina indica questi criteri. Il nucleare ovviamente è un tema che suscita direi naturalmente una prospettiva quasi manichea, c'è chi è favorevole e chi è contrario, molto spesso per ragioni un po' pregiudiziali, un po' ideologiche. Oggi cercheremo di entrare non tanto sul tema politico quanto proprio sul tema tecnico, cercheremo di spiegare, di approfondire da un punto di vista, se permettete, anche divulgativo, che cos'è il nucleare, cercando di non avere pregiudizi. Ecco, vi dicevo, è un tema che suscita subito anche divisioni, lo dimostrano i primi messaggi che sono già arrivati al nostro 349-238-6666. Gianluca scrive, per esempio, il nucleare è una discussione inutile in un paese che non è in grado di costruire un inceneritore, un'osservazione certamente corretta. Peraltro sul nucleare non è che si stia discutendo, sul nucleare si sta agendo, si è fatta una legge, si fanno dei provvedimenti, si fanno dei passi avanti, si costituirà tra breve un'agenzia che dovrà appunto cominciare a trattare con le regioni, con i comuni, per avviare la localizzazione dei nuovi siti. Un altro ascoltatore scrive, mi sbaglio, sul nucleare gli italiani hanno già detto no. Sì, è vero, hanno detto no nel 1987, 23 anni fa, in un referendum, ma nessuna decisione vale per sempre, ed è potere dello Stato, del Parlamento, delle leggi anche di rivedere delle decisioni prese, e beh, eventualmente i cittadini avranno tutto il diritto anche di intervenire di nuovo con un altro referendum su ulteriori decisioni. Ma pensare che alcune decisioni, come quella appunto del referendum dell'87, 23 anni fa, ripeto, devono essere considerate eterne, forse non fa parte della dinamica non solo della società civile, ma anche della scienza, della tecnologia. Rispetto a 23 anni fa si sono fatti, e lo vedremo con i nostri esperti, dei passi avanti significativi sul fronte della sicurezza, delle garanzie che lo stesso nucleare vi dà. Allora, ricordandovi il numero verde 800 24 00 24, per le vostre telefonate vi presento subito chi parlerà con noi di nucleare. Maurizio Martellini, buongiorno Martellini. Buongiorno. Segretario generale del Landau Network, Centrovolta, professore di fisica teorica presso l'Università dell'Insubria. Poi professor Marco Ricotti, buongiorno professor Ricotti. Buongiorno direttore, buongiorno ai radioascoltatori e ai suoi ospiti. Ricotti è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano e Diego Menegon, buongiorno Menegon. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie, Menegon è ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni. E allora inizierei con il professor Martellini, proprio partendo dall'introduzione che ho fatto e da questo legame certamente più politico che non tecnologico con la vicenda iraniana. Ma c'è anche un punto molto significativo, perché l'opposizione diciamo così di pelle al nucleare nasce dal fatto che il ricordo dell'energia nucleare, il ricordo del nucleare è legato molto alle bombe di Hiroshima, a Nagasaki, alle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, è legato a una visione del nucleare come offensivo. Allora, professor Martellini, il legame tra energia nucleare civile, di pace, di ricerca, di studio, di produzione di energia e l'energia militare è un legame così stretto, così vicino? Si può paragonare l'energia, lo sfruttamento dell'energia nucleare alla potenzialità di una bomba atomica? Mi scusi, forse un po' la brutalità della domanda. Professor Martellini. Beh, guardi, ovviamente come qualunque tecnologia ad uso duale può avere queste implicazioni, però i miei colleghi che l'ha intervista sono probabilmente più addentro a me sull'aspetto civile, sono più sull'aspetto militare. Voglio subito spiegare una cosa a quell'osservatore e voglio farlo con un esempio semplice. Pensate alle macchine, alle auto. Allora, c'è la fabbrica che fa le auto e poi c'è l'impianto che produce il gasolio, la benzina. Allora, il problema nel trasferito nel nucleare, ci sono impianti che producono il combustibile nucleare, per esempio questi impianti famosi che sono sotto discussione nella Repubblica Islamica dell'Iran, dell'arricchimento dell'uranio, poi se volete vi spiego le cose, e poi ci sono le famose società che producono gli impianti nucleari e tutte le facility connesse. Quello che è proliferante o che rischia di essere usato per scopi illeciti è a livello del combustibile nucleare. Questo è un problema noto fin dagli albori, tant'è che l'Agenzia Atomica Internazionale per l'Energia si era nell'impianto, diciamo, che regola questi, uno strumento internazionale che regola i rapporti degli stati con l'agenzia, ci sono le cosiddette salvaguardie per far sì che non ci sia un uso illecito. Ecco, io mi concentrerei, se vuole, sull'aspetto del combustibile nucleare, che è quello critico che può avere scopi militari. Sì, indubbiamente, perché quello di cui si parla è il fatto che lo stesso combustibile che può servire per le centrali per la produzione di energia può servire anche, con qualche processo forse in più e diverso, per costruire le classiche bombe atomiche. Certo, fondamentalmente, in una sentenza, l'arma nucleare è un sistema a tre, per spiegarlo agli ascoltatori, perché sono confusi a tutte queste dichiarazioni recenti legate anche alle ultime affermazioni del presidente iraniano. L'arma nucleare ha tre componenti: uno è l'involucro, è l'arma, quello che noi fisici chiamiamo il pacchetto non fisico, quindi l'ordigno, gli ordigni sono di tipo implosivo, gli ordigni moderni. Poi c'è il cuore dell'arma nucleare, senza il quale non c'è la detonazione. Questo può essere di due tipi: o l'uranio altamente arricchito o il plutonio. L'uranio altamente arricchito si ottiene con delle procedure varie, ad esempio tramite delle lavatrici super veloci che viaggiano a velocità ruota, a velocità subsonica, e che si chiamano centrifughe. È una tecnologia vecchia. Tra l'altro c'è un consorzio europeo, Nurenco, che mette a disposizione queste macchine per produrre combustibile per scopi civili, per i reattori europei. Ecco, queste centrifughe, queste lavatrici super veloci, se lavorano, tanto per dare un'idea, e ovviamente sto parlando un linguaggio, come dire, accessibile, se mettiamo 100 la scala per produrre l'arricchimento, il combustibile bombabile per la bomba, ecco, il 70% di questa attività serve, pochi lo sanno, serve per produrre un arricchimento debole che si chiama uranio debolmente arricchito. C'è un numero sotto il 5% che serve per i reattori. Quello che pochi sanno è che la parte più difficoltosa è proprio la prima parte, il 70% del lavoro che si fa per portare questo uranio naturale purificato, che si chiama yellow cake, a questa forma tra il 3.5 al 5% per i reattori. La fase successiva, che è il 30%, quindi è, se volete, meno, può portarlo a vari livelli che si avvicinano alla soglia bombabile. Per l'Agenzia Atomica Internazionale questo è oltre il 20% arricchimento, per cui glielo dico per gli ascoltatori. L'Iran, se oggi inizia ad arricchire al 19.5%, che è l'arricchimento necessario per il suo reattore di ricerca, è di fatto permesso a farlo e lo può fare sotto il trattato di non proliferazione. Ecco, questo è l'aspetto duale del combustibile. Grazie professor Martellini. Ci sono alcuni ascoltatori che ci scrivono, ma sentiamo anche qualche voce contraria. Ma non stiamo facendo una delle voci favorevoli e delle voci contrarie, stiamo approfondendo dal punto di vista tecnico, stiamo spiegando come funziona il nucleare. Poi ognuno è libero di scegliere se farlo funzionare o no, se accettarlo o meno, ma prima di scegliere bisognerebbe capire e non avere dei pregiudizi, e cerchiamo di capire con degli esperti che sono professori universitari di queste tecnologie e che le conoscono. Quindi non abbiamo una visione pregiudizialmente favorevole, ma nemmeno pregiudizialmente contraria. Allora, professor Marco Ricotti, ricordo, docente di impianti nucleari al Politecnico, si è parlato del fatto che si è votato 23 anni fa contro il nucleare. È cambiato qualcosa in questi 23 anni sulla sicurezza degli impianti nucleari? Direi che più che cambiato, direi che si è confermata il livello di sicurezza degli impianti nucleari. Non voglio prendere a pretesto eventi degli ultimi giorni, ma certamente se si guardano i dati, appunto, se, come lei giustamente faceva rilevare, se non iniziamo a discutere di sensibilità politiche o meno, ma guardiamo in faccia i dati della realtà, vediamo che l'esperienza di conduzione degli impianti nucleari in tutto il mondo ha portato ormai ad una capacità di gestione dei reattori molto affidabile. Direi che oltre a questa esperienza ormai da riconoscere indubbia sui reattori esistenti, ci sono poi i nuovi progetti di reattori, quelli di cosiddetta terza generazione, che promettono un avanzamento ulteriore della tecnologia e quindi un miglioramento anche della fase di gestione e di sicurezza, vuoi dotandosi di nuovi sistemi di sicurezza cosiddetti attivi, vuoi utilizzando leggi naturali che vengono appunto sfruttate dai sistemi di sicurezza cosiddetti passivi. Quindi direi che appunto vale l'esperienza sul campo, e questo ci dice ad oggi la capacità di gestione delle varie utilities che nel loro mix di portafoglio energetico hanno deciso di dotarsi anche di nucleare. Ecco, c'è oggi sul Sole 24 Ore un'intervista del segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, che è critico verso le scelte del governo sul nucleare, e dice che non è tanto critico sul fatto di chiudere la porta in assoluto al nucleare, ma dice che queste scelte stanno chiudendo la porta al nucleare, l'idea di un rientro al nucleare in modo scomposto e inattuale. Queste sono le parole di Bersani. Il sistema non è pronto, a partire dalla gestione delle scorte puntiamo su tecnologie vecchie, non testate e non di nuova generazione, e per giunta francesi. Mi sembrerebbe più logico, sono ancora parole di Bersani, invece concentrarsi sulla ricerca e sul nostro know-how sul nucleare, nel frattempo impegnarci nei settori critici dell'energia come l'efficienza energetica. Ecco, questo per dare una voce critica sulle attuali scelte del governo e quella del segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Ecco, su queste scelte, comunque su questa scelta di procedere sul nucleare, c'è anche un problema di tempi, perché il nucleare richiede ovviamente grossi investimenti e tempi lunghi. Diego Menegon ha recentemente elaborato uno studio sulle prospettive del nucleare in Italia. Tempi lunghi o tempi troppo lunghi? Ma direi tempi indefiniti, che rischiano di essere estremamente lunghi. E questa è una delle perplessità che abbiamo sollevato e che ha ispirato anche alcune osservazioni che abbiamo rivolto nelle settimane scorse alle commissioni parlamentari come Istituto Bruno Leoni. Qualcosa si è fatto, le commissioni parlamentari hanno recepito solo in parte queste osservazioni e si riflettono in alcune correzioni che sono presenti nel testo ora in questi minuti all'esame del Consiglio dei Ministri. Soprattutto sembra che questo decreto, il quadro normativo così delineato, si spinga molto nella direzione di una concertazione ripetuta, protrattasi per un periodo molto lungo e anche frammentata in più momenti, ossia c'è un momento concertativo quando si tratta di individuare i criteri per definire le aree idonee ad ospitare un sito nucleare, e in questo intervengono naturalmente due volte durante la fase istruttoria dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare e in sede di valutazione ambientale strategica enti locali e regioni. In un secondo momento, con la presentazione delle istanze per la certificazione dei siti, si riattiva una nuova fase concertativa. A questa segue un'altra fase concertativa al momento della richiesta dell'autorizzazione effettiva dell'impianto nucleare. E questo rischia naturalmente anche di creare un iter che si inceppa in ogni momento con un cambiamento d'umore di una regione, un ente locale che si oppone ad un'intesa precedentemente rilasciata. E questo problema è stato solo in parte risolto definendo almeno dei termini più precisi nel testo definitivo. Poi una seconda perplessità che riguarda non tanto la certezza dei tempi quanto la certezza proprio del diritto è quella che riguarda l'attività di decommissioning, ossia il testo ora è stato soltanto in parte corretto e prevede una specie di monopolio pubblico in capo alla Sogin, dal quale non si scappa, diciamo. Gli operatori devono affidare ad una società l'attività di decommissioning senza sapere di preciso quali saranno i costi finali, e questo naturalmente crea una forte incertezza negli investimenti, perché chiaramente, appunto, secondo me non è il governo, non sono le autorità pubbliche, ma sono gli operatori a poter valutare la convenienza di un investimento. Certo, ricordiamo che questi investimenti sulle centrali nucleari saranno realizzati da privati, da società private, anche se qualcuna come Enel ha partecipazione pubblica, ma potranno essere anche altre società private a realizzare questi investimenti. Il compito del governo è di definire lo scenario in cui realizzare e poter realizzare questi investimenti, e quindi anche uno scenario finanziario. Ci sono molti SMS e sottolineano soprattutto il fatto che ci sono dei problemi ancora irrisolti, alcuni li abbiamo già accennati, non tanto il problema finanziario ma anche il problema tecnico dello smaltimento delle scorie, il fatto che il nucleare non sia un'energia pulita. Questo non capisco cosa voglia dire, magari se ce lo precisa meglio l'ascoltatore potremo spiegarlo. L'energia pulita è un'energia che non ha emissioni, sappiamo che le emissioni di CO2 e delle altre fonti di energia sono significative e creano anche qualche problema. Bentornati a 9 in punto, stiamo parlando di energia nucleare, del fatto che proprio in questi momenti, in questi minuti, il governo sta varando un provvedimento per definire i criteri per la localizzazione delle nuove centrali nucleari. Ci sono già molti messaggi, ve ne ho dato atto di qualcuno prima, al 349-238-6666, che insistono soprattutto sul tema delle scorie. Come smaltiremo le scorie? Può darsi che le centrali siano veramente sicure, ma poi dopo le radiazioni prodotte dalle scorie durano anche 12.000 anni, e quindi dove le metteremo? Cosa possiamo fare, come fanno gli altri paesi? Sono queste le domande soprattutto che arrivano dai vostri SMS. E saluto il sindaco di Caorso, buongiorno dottor Fabio Callori. Buongiorno a voi. Il sindaco di Caorso, sede di una ex centrale nucleare, presidente della consulta dell'ANCI dei comuni sedi di servizi nucleari. Ma prima di dare la parola anche al sindaco, sentirei qualche ascoltatore. Luigi da Pisa, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Senta, io per principio sarei contrario come 23 anni fa al nucleare, ma non tanto per essere contrario al nucleare in sé per sé, perché l'Italia è un paese immaturo e ha dimostrato in questi 23 anni di non saper gestire le ex centrali nucleari, tipo quella di vicino Latina, che è aperta al pubblico come se fosse un parco giochi, la gente ci può entrare liberamente dentro, è quindi questa scarsa gestione del dopo che mi preoccupa, non tanto il nucleare in sé per sé. Quando l'Italia dimostra di essere un paese maturo e riesce a risolvere i problemi delle ex centrali nucleari, può darsi che la gente sia più favorevole. La ringrazio, sono molti che sottolineano: non riusciamo a risolvere i problemi della spazzatura a Napoli, figuriamoci quelli delle scorie nucleari, che richiedono ben altra attenzione e ben altra tecnologia. Sebastiano da Como, buongiorno. Buongiorno, infatti io mi volevo associare a quello che diceva Luigi, nel senso che la cosa che fa veramente paura non è il nucleare in sé assolutamente, ma è l'Italia come paese. Noi siamo un paese dove le camere iperbariche di un ospedale saltano per aria e si scopre che non c'era neanche l'acqua per spegnere quell'incendio, perché non era stata neanche messa. Dove i treni deragliano perché abbiamo vagoni di merci vecchi di 40 anni che nessuno neanche ha preso la briga di controllare. Allora io mi chiedo, appunto, chi è che si prenderebbe dice in questo paese? Lo chiedo a tutti gli italiani e a tutti gli ascoltatori. La ringrazio, indubbiamente i casi che lei ha citato sono casi ovviamente avvenuti veramente, speriamo che siano delle eccezioni, che la regola sia quella di un paese che è ordinato, che ha i suoi controlli, che ha le sue garanzie. Poi dopo l'errore umano è sempre possibile, anche se deprecabile in certi casi, quando costa appunto anche la vita ad altre persone, e i controlli vanno fatti, vanno eseguiti. Bisogna appunto forse non dare l'immagine di un paese sulla base di qualche avvenimento. L'immagine di un paese è un paese comunque che è un paese moderno, che ha le sue capacità, in cui gli ospedali funzionano. Poi indubbiamente si può sempre fare meglio e si deve comunque evitare qualunque errore umano e qualunque possibilità di errore umano. La perfezione purtroppo non è di questo mondo, anche se dobbiamo tutti tenderci, e soprattutto in temi delicati come quelli appunto dell'energia, come quelli della vita umana, la sicurezza, la garanzia deve essere il più vicino possibile all'assoluto. Giorgio da Milano, buongiorno. Buongiorno, noi abbiamo la Francia e la Svizzera vicine che producono energia nucleare dagli anni 60, quando succede qualche disastro tutto arriva qui in pochi secondi, voglio dire, perché dobbiamo pagare tre volte tanto la corrente e poi comunque rischiare lo stesso, visto che le radiazioni francesi possono arrivare qui comunque. A questo punto tanto vale fare le nostre centrali, avere i nostri impianti, così da pagare almeno due o tre volte meno la corrente, e poi vabbè, chiaro, se succederà un disastro come Chernobyl moriremo in milioni, però... A Chernobyl, mi scusi, non sono morti in milioni. Chernobyl è stato sicuramente un disastro, è stato sicuramente un dramma, è stata sicuramente una zona che è ancora in parte esclusa dal vivere civile, però non è stata certamente una carneficina. Molti dati sono stati anche molto, hanno creato molto allarme, e gli effetti soprattutto di fuori di Chernobyl sono stati molto limitati. Quello è stato un disastro, peraltro provocato non solo dalla scarsa scarsità dei controlli, non solo dalla mancanza di garanzie, dal tipo vecchio di reattori, ma anche dall'imperizia umana e quasi da una volontà malefica di fare degli esperimenti sulla pelle delle persone. A Chernobyl si è dimostrato che è stata quasi voluta questa tragedia, se no sarebbe stato difficile provocare un incidente di questo tipo. Quindi quello è veramente l'eccezione delle eccezioni. Parlare di Chernobyl come di una possibilità penso che possa essere completamente esclusa dal novero dello sviluppo dell'energia nucleare, dell'uso dell'energia nucleare in queste fasi. Infatti nell'Europa occidentale non è avvenuto nessun incidente, qualche piccolo incidente, qualche fuga radioattiva può esserci stata indubbiamente, ma nessuno che abbia avuto nemmeno lontanamente la possibilità di arrivare al disastro avvenuto a Chernobyl. Quindi l'eccezione delle eccezioni non deve costituire comunque qualcosa su cui basare tutti i nostri giudizi. Mi scusi se l'ho interrotto. La prego, non c'è più. Allora sentiamo Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma io sono un fisico, quindi non ho pregiudizi particolari rispetto al nucleare. La perplessità, mi rilascio a quanto è stato detto prima, è proprio sul sistema paese. Quindi io ho tre perplessità sostanziali. La prima è il fatto che comunque noi dipenderemo per il combustibile da qualcuno, perché non è che il combustibile, quindi comunque dipenderemo, come lo facciamo per il gas o per il petrolio, da qualcun altro per comprare il combustibile. Due, il fatto che ancora nessuno dice effettivamente quanto è il costo del kilowattora nucleare e se è veramente confrontabile con... La sentiamo male purtroppo, mi scusi, comunque è chiaro quello che lei diceva, il sistema paese rischia di non avere la capacità, ecco, questo pessimismo di fondo sì, certamente ha ai suoi fondamenti, gli esempi ci sono, ma è anche un sistema paese il nostro che di fronte a traguardi, di fronte a prospettive anche appunto forti, sa comunque prendere energie, recuperare e mettere in campo le sue capacità migliori, quindi anche sotto il profilo della ricerca. L'Italia aveva degli ricercatori di punta sul fronte del nucleare e secondo me uno degli effetti negativi non è stato del referendum dell'87 preso sull'onda proprio di Chernobyl, non è stato tanto quello di fermare la costruzione di nuove centrali, cosa che peraltro hanno fatto anche altri paesi dove le nuove centrali per lungo periodo non sono state realizzate, quanto di fermare la ricerca, di fermare lo sviluppo, di fermare le prospettive. E quindi quando si fermano le prospettive, le speranze di cambiare, le speranze di crescere, allora è veramente un sistema paese che sembra chiudersi su se stesso. Abbiamo bisogno forse di avere fiducia, avere più fiducia in noi stessi, poi possiamo scegliere di farlo o di non farlo, indubbiamente, di fare degli investimenti a lungo termine oppure di fare degli investimenti più piccoli a breve termine e che forse possono dare dei risparmi maggiori, ma secondo me non sono due strade alternative, bisogna fare le due cose, puntare sulle energie rinnovabili, puntare sulle energie alternative pulite, come si dice, il fotovoltaico, l'eolico, le altre energie che comunque non possono dare grandi risposte alla grande domanda di energia. Indubbiamente lei diceva poi il combustibile va cercato, va comprato all'estero, ma sarà una diversificazione, non dovremo dipendere solo dai paesi produttori di petrolio ma anche dai paesi produttori di uranio che sono diversi dai paesi produttori di petrolio e quindi minore a rischio di minore crisi. Questa è una delle ragioni. Lorenzo da Roma, buongiorno. Buongiorno. Allora, no, io volevo raccontare una piccola cosa che ha pubblicato anche il Sole 24 Ore qualche tempo fa. In Svezia due cittadine, Oskarshamn e Östhammar, si sono fatto una gara per avere il deposito di scorie nucleari. Ripeto, hanno fatto una specie di gara per avere il deposito definitivo delle scorie nucleari. Allora, gli svedesi sicuramente tecnologicamente sono delle persone che conoscono bene il fatto loro, diciamo, quindi si pone la domanda, ripeto, hanno fatto una gara per avere il deposito delle scorie nucleari definitivo. Siamo matti noi o sono matti loro? Lascio a voi la risposta. Grazie, Michele da Caserta, buongiorno. Buongiorno a lei, direttore. A prescindere da come la si pensi, io vorrei approfondire il tema sotto un profilo economico, non ideologico di fiducia nel futuro, ma dal punto di vista economico, considerando i costi di attivazione e considerando tutti i costi di smaltimento e stoccaggio di rifiuti per migliaia d'anni, ma è davvero economica l'energia atomica? Questo è il punto cruciale. Lei fa riferimento alla ricerca, sappia che l'Eni Energia, l'Enel, hanno mantenuto la ricerca e stanno costruendo centrali in altri paesi del mondo, quindi non abbiamo perso energia, non abbiamo perso know-how. Io abito a 50 km dall'ex centrale del Garigliano, ancora oggi se le va è tutto aperto, è un disagio vedere una centrale atomica pur in disuso, pur chiusa, in completo abbandono. Quindi, ripeto, dal punto di vista economico, considerando i costi di attivazione e considerando i costi di stoccaggio, di smaltimento dei rifiuti, secondo me e secondo i migliori studiosi non è economico, non c'è problema ideologico, un problema economico. Grazie. Sì, la ringrazio. Come dicevo prima, le scelte poi di realizzare le centrali nucleari saranno scelte che le singole società che operano nell'energia, l'Enel, Edison, faranno, e lo faranno sulla base di ragionamenti, di previsioni, di valutazioni strettamente economiche. Ci vorranno sicuramente decenni prima di realizzare una centrale, bisogna pensare a lungo termine. Pensare adesso di quale può essere le prospettive a 10 anni, ovviamente un po' è una scommessa. Dobbiamo però pensare che inevitabilmente i prezzi del petrolio cresceranno e quindi fare una valutazione attuale, sull'attuale convenienza, può essere una valutazione un po' miope. Bisogna anche prevedere un po' quello che potrà essere l'evoluzione futura, soprattutto sul fronte energetico. In questo senso è giusto fare una valutazione economica del nucleare. Quanto costa un kilowattore nucleare? Questa è la domanda. Indubbiamente, se stiamo alla realtà dei fatti, un kilowattore nucleare in Francia, un kilowattore prodotto con nucleare in Francia, costa meno di un kilowattore prodotto con le centrali a gas italiane o le centrali a ciclo combinato italiano. Questo costa meno, è una realtà di fatto di mercato, si può vedere di giorno in giorno. Su questo tema forse Marco Ricotti può dirci qualcosa. Professor Ricotti. Ma guardi, io mi sono appuntato alcuni spunti molto interessanti dei radioascoltatori. Ecco, allora la pregherei, ritengo un attimo lì, io darei la linea alle notizie sul traffico. Bentornati all'ultima parte di 9 in punto. Parliamo di energia nucleare, del provvedimento del governo che apre la pista alle procedure per la localizzazione delle nuove centrali. Stavamo parlando con il professor Marco Ricotti, docente di impianti nucleari e Politecnico di Milano, in risposta a molti ascoltatori che ci stanno scrivendo. Professor Ricotti. Sì, mi sono appuntato questi commenti per Michele da Caserta. Direi che i costi di attivazione, smaltimento, rifiuti incidono normalmente per una percentuale sul costo di produzione del kilowattora dal 3 al 6%, quindi è un costo tutto sommato contenuto, quindi includendo decommissioning e smaltimento dei rifiuti si aumenta il costo di produzione del kilowattora di una percentuale che va dal 3 al 6%. Ovviamente è importante avere un parco di reattori adeguato all'interno di un paese, perché sappiamo che i costi di smaltimento dei rifiuti, i costi di commissioning sono in carico alle utilities che producono energia elettrica con questi reattori. Per Lorenzo da Roma, sì, direi che i matti iniziano ad essere parecchi, perché oltre agli svedesi, le due cittadine svedesi che si stanno contendendo il deposito definitivo, c'è da annoverare anche i finlandesi che hanno già in essere il progetto per la realizzazione del sito geologico profondo per il confinamento definitivo dei rifiuti nucleari, e notizia di qualche giorno fa in Spagna sono addirittura 13 i comuni che si stanno contendendo il deposito cosiddetto ad interim, quindi il deposito temporaneo per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi ad alta radioattività. Per Roberto da Roma, dipendiamo da altri per quanto riguarda il combustibile, sì, ma da chi? Allora, per l'estrazione da Canada e Australia principalmente, per la produzione da Stati Uniti, direi Inghilterra, Francia, quindi tutto sommato, scusate, direi... Sì. Paesi che sono più stabili che quelli del Medio Oriente. Ricordo che noi importiamo una quota non trascurabile di petrolio dall'Iran, detto per inciso. Da ultimo, un ultimo commento per Luigi da Pisa, Sebastiano da Como. Sono d'accordo con loro. Il nucleare in Italia è una sfida importante per l'intero paese. Non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista normativo, l'ha detto giustamente Menegon, prima, dal punto di vista organizzativo, mi permetto da dire da tecnico, sommessamente anche dal punto di vista politico, perché una centrale nucleare dura 60 anni e quindi è importante non ripetere diciamo gli errori del passato. Noi siamo stato l'unico paese nel mondo a spegnere le centrali nucleari attive, non solo a effettuare una moratoria, quindi ad interrompere le costruzioni. Abbiamo in questo modo interrotto un'industria, un'intera industria, e proprio ieri mi sembra il professor Garriba del Ministero dello Sviluppo Economico ha dato una cifra che forse per difetto, il costo di arresto dell'industria nucleare in Italia ci è costata qualcosa come 50 miliardi di euro, probabilmente probabilmente anche di più. Grazie professor Ricotti, siamo vicini alla conclusione e vorrei leggere un paio di messaggi. Uno dice: ma io prenderei volentieri una centrale nucleare al posto di questa puzzolente raffineria che è di fronte a me. Questa è un'opinione. Altri messaggi sottolineano che l'Italia è un paese ad alto rischio sismico, quindi sarà difficile costruire nuove centrali. Ma vorrei lasciare la parola a Fabio Callori, sindaco di Caorso, presidente della consulta del Lanci dei comuni sedi di servitù nucleari. Caorso, in provincia di Piacenza, sulle rive del Po, ha una centrale, una delle ultime, forse l'ultima centrale che è entrata in funzione e che per qualche anno ha prodotto e poi è stata spenta. E si parla dei siti dove ci sono le vecchie centrali nucleari, Garigliano, Trino Vercellese, lo stesso Montalto di Castro, come possibili siti per nuove centrali nucleari, non tanto per riattivare le vecchie che ormai sono quasi arrugginite, ma per nuove centrali nucleari. Sindaco di Caorso, lei sarebbe favorevole? Ma allora, innanzitutto io vi ringrazio di avermi interpellato, che fa molto piacere anche poter dire la mia e quella un po' nostra dei comuni. Però noi come comuni, anch'io, abbiamo detto che la priorità per i nostri, per i nostri territori è la dismissione, perché io condivido quello che è stato detto nelle interviste che avete fatto prima, nel senso che l'Italia si è dimostrato un paese immaturo su questa scelta del nucleare, perché in 20 anni, dall'87, quindi dal referendum, al 2007 non si è mosso niente sulla dismissione per gli impianti nucleari, e questo penso che un paese che voglia ripartire dal nucleare debba dare dei segnali di capacità di saperlo gestire. Noi, parlo di Caorso, nel 2007 abbiamo cominciato a allontanare le 1032 barre d'uranio per il riprocessamento, perché se non si allontanano quelli chiaramente non può partire la dismissione dell'impianto, dismissione che deve ancora essere autorizzata ad oggi. E dal 2000 che abbiamo negli uffici dei ministeri la pratica di dismissione, ancora ad oggi non è stata autorizzata. Quindi sicuramente non stiamo dando un segnale positivo per il futuro nucleare, e soprattutto noi come consulta di comuni abbiamo fatto delle osservazioni al decreto, e un'osservazione è quella di dire che ci vogliono delle certezze sulle compensazioni, perché abbiamo visto che con la legge 368 del 2003 a noi comuni avevamo diritto ad avere delle compensazioni che poi nel 2005 ci hanno tagliato del 70%. Allora, se oggi partiamo con un decreto che dice ai comuni arriveranno tanti soldi, ai comuni limitrofi tanto, e poi fra 3 anni mi cambiano il decreto e me li dimezzano, quindi, e soprattutto deve dare questo decreto una certezza sul futuro, perché il problema grosso dei comuni che hanno impianti nucleari non è quando l'impianto produce, che allora vabbè c'è ricchezza, c'è indotto, è dopo. Quando l'impianto si chiude, il comune deve, il territorio deve essere accompagnato a fuoriuscire, quindi a far sì che non ci sia poi una caduta libera del territorio per quanto riguarda tutto il commercio e l'industria. Ma sindaco, i cittadini di Caorso, chi vive a Caorso, che ha vissuto e vive ancora di fianco alla centrale nucleare, è pregiudizialmente favorevole o contrario a una nuova centrale? Allora, diciamo che a Caorso non c'è questa preoccupazione che si verifica in tanti altri posti dell'Italia, nel senso che la gente ha convissuto in questi anni, ha convissuto con nucleare quando produceva, ha convissuto con queste non scelte, oggi è felice perché si sta avendo dei lavori per dismettere l'impianto, e oggi penso che sia cambiata un po' anche la cultura, non c'è più quella cultura del no a priori, ma la popolazione è divisa da chi dice: ma per me va bene perché tanto le abbiamo qui sulla, vicino alla catena alpina al confine con la Francia, da chi dice io lo vorrei però se si risolvesse il problema delle scorie, poi c'è chiaramente chi pregiudizialmente dice no, però la cultura è molto cambiata rispetto a anni fa, e quindi io penso che con un'informazione giusta e adeguata si possa far cambiare cultura anche al paese, inteso come Italia intera, per questa nuova scelta energetica. Ecco, mi sembra questa forse la conclusione migliore per questa trasmissione. Ci vuole una cultura adeguata, un'informazione giusta e soprattutto una volontà di discutere, di dibattere, di non partire da posizioni preconcette che non accettano il dialogo. Noi in questa ora scarsa in cui abbiamo dialogato abbiamo cercato, anche grazie agli ospiti che ringrazio, Marco Ricotti, Maurizio Martellini, Fabio Callori, sindaco di Caorso, e Diego Menegon, abbiamo cercato di mettere un po' in luce alcuni problemi problemi, non certo di dare delle soluzioni, ma di capire un po' di più la vasta problematica del settore nucleare, la costruzione delle centrali, gli investimenti richiesti, il combustibile come va richiesto e soprattutto il grande problema indubbiamente esistente dello sbaltimento delle scorie, di trovare dei luoghi sicuri che in altri paesi, c'è stato il caso della Svezia citato, sono stati trovati con tutte le garanzie, la radioattività attorno ai depositi di scorie è dimostrato non è superiore a quella naturale, se ci sono appunto tutte le garanzie. I problemi possono essere risolti, poi la scelta può essere una scelta che il paese può fare o non può fare, valutando le prospettive, valutando i propri problemi, valutando anche le proprie capacità, ma senza la, secondo me, la necessaria volontà di autoflagellarsi. Cerchiamo di guardare con positività e con possibilità di risolvere in maniera costruttiva i problemi. Potremmo anche non scegliere il nucleare, non è obbligatorio, indubbiamente, ma qualcosa va fatto per affrontare il tema energetico per il nostro futuro. Intanto, mentre noi parlavamo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento per l'individuazione e la localizzazione dei nuovi siti nucleari. Siamo stati tempestivi nell'illustrare questa problematica. Vi ringrazio dell'attenzione. L'appuntamento con Oscar Giannino è per domani.